Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nel 2015 l'uscita dalla recessione, dice Confindustria, che annuncia saremo parte civile nel processo su Mafia Capitale. La corruzione ha bruciato 300 miliardi di PIL in 20 anni. Il caso dei Marò, il governo richiama l'ambasciatore italiano per consultazioni. L'Italia si riserva tutti i passi necessari. Siamo delusi e irritati, dice il ministro Pinotti. Pakistan, dopo la strage di studenti, i talebani minacciano nuovi attacchi. Si sono sentite esplosioni fuori da una scuola femminile a Peshawar. Non sono colpevoli di terrorismo, assolti dall'accusa in Ottawa sotto processo a Torino, condannati per danneggiamenti e uno schiaffo alla procura, dicono i leader del movimento. Il caso Iare, immagini del furgone di Bossetti intorno alla palestra nel giorno della scomparsa della ragazza. In recupero, la borsa russa e il rublo questa mattina in attesa della conferenza stampa di domani di Vladimir Putin. Giù l'Europa con Milano che perde quasi 2 punti percentuali. Avevano denunciato i furti alla Girolamini di Napoli, erano stati nominati cavalieri de Napolitano, ma ora 3 bibliotecari rischiano che il contratto non sia rinnovato. Parleremo con una di loro, precaria da 42 anni. La seconda serata di Benigni sui 10 comandamenti fa meglio della prima, lo avete già sentito anche nella trasmissione di Gianluca Nicoletti, oltre 10 milioni di telespettatori e il 38% di share. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, se volete potete scriverci effettogiorno@radio24.it oppure visitare la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, scriverci anche via sms se volete durante la trasmissione 349-238-6666. Iniziamo parlando di economia e parlando di Confindustria che stamattina ha diffuso delle previsioni per quanto riguarda il 2015, ma ha parlato anche e parecchio di corruzione. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Tutelare la reputazione delle imprese, la leale concorrenza sul mercato, ma anche ribadire l'impegno per la legalità e per questi obiettivi che Confindustria decide di costituirsi parte civile nell'inchiesta Mafia Capitale che ha travolto la politica romana. L'annuncio è stato dato durante il seminario del Centro Studi sulla lotta alla corruzione al quale ha partecipato anche il ministro della Giustizia Orlando. Allora abbiamo raccolto il suo commento. Sentiamo. È un fatto importante, anche nuovo, diciamo, rispetto all'atteggiamento talvolta, diciamo così, di un po' di rassegnazione. Credo che sia un segnale di volontà di contribuire a un riscatto. La corruzione, denunciano gli industriali, a una zavorra sullo sviluppo economico con effetti negativi sul PIL, un vero freno per il progresso economico. Se con Mani Pulite l'Italia l'avesse ridotta al livello della Francia, il PIL sarebbe stato nel 2014 di quasi 300 miliardi in più. Ma dal Centro Studi oggi anche alcuni dati positivi sulla situazione economica. L'Italia è in uscita dalla recessione con una ripresa dal primo trimestre 2015, quando il PIL tornerà positivo al più 0,2. Secondo Diario dell'Astronomia, nel 2015 il PIL sarà dello 0,5 per poi accelerare nel 2016 con un più 1,1%. Lo scenario economico globale, dicono dunque gli economisti, si presenta migliore rispetto a 3 mesi fa. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. E per restare sui temi di economia italiana e di politica economica, ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la legge di stabilità. Naturalmente non sono le prime, non saranno le ultime, ma sentiamo quali sono quelle di oggi con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Manovra economica, allora le battute finali in commissione bilancio del Senato, il testo dovrebbe arrivare così in aula domani mattina, Palazzo Chigi e forze politiche di maggioranza puntano ad un via libera entro il fine settimana che permetta poi una terza lettura alla Camera prima della pausa natalizia. Nelle ultime ore si sta lavorando per sciogliere i nodi rimasti, minimi, fondi pensione, IRAP partecipate e per l'imposta regionale sulle attività produttive. La novità riguarda allora i soggetti IRAP che non hanno dipendenti, che potranno fruire di un credito di imposta del 10%. Questo per compensare l'aumento dell'aliquota dal 3,5 al 3,9 deciso con la legge di stabilità. Ed ancora, la tassazione per fondi pensioni e casse privatizzate verrà ridotta rispettivamente al 12,5 e al 20% rispetto a quanto previsto dalla manovra, questo per la quota di investimenti di medio-lungo periodo nell'economia. Tra le misure minori, le novità della mattinata prevedono lo sblocco di alcune risorse, 8 milioni per l'alluvione di Genova o 5 milioni per il fondo famiglia per le adozioni internazionali, 5 milioni in più per lo screening neonatale. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Noi adesso restiamo in Parlamento perché questa mattina il ministro Gentiloni e la ministra Pinotti sono intervenuti per parlare della vicenda dei due Marò. Sentiamo. Atteggiamento inaccettabile quello dell'India, tanto da richiamare l'ambasciatore italiano a Nuova Delhi per consultazioni. Specifica però il ministro Gentiloni che non si tratta di rottura delle relazioni diplomatiche, ma i toni sono molto aspri. Sono in gioco principi irrinunciabili di sovranità e di diritto internazionale. Credo che l'Italia abbia l'obbligo di reagire. I ministri ribadiscono la sorpresa nel vedere respinte le istanze dei due Marò, presentate solo per motivi umanitari, sottolinea il titolare della difesa. Dunque il governo italiano si aspettava un risultato diverso. Resta aperto il canale politico-diplomatico. Ma Roberta Pinotti lancia un affondo all'India e per vie indirette alla comunità internazionale. Il capolatore e il capogirone sono organi dello Stato. L'Italia ha la responsabilità su di loro e ad essa non si sottrarrà. È nell'interesse dell'India, che impiega molte truppe in operazioni internazionali all'estero, conoscere e sostenere l'immunità dei nostri Marò. Prima di arrivare al capitolo Marò, la Pinotti ha elencato le prossime missioni per i soldati italiani: 750 i militari che partiranno per l'Afghanistan, 280 quelli che andranno in Iraq. L'impegno italiano nel panorama internazionale è tangibile. La comunità internazionale ne tenga conto. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dall'India adesso ci spostiamo in Pakistan e poi torneremo più avanti nel corso della trasmissione sulla vicenda dei due Marò per un commento e un'analisi per capire se ci siano stati anche degli errori commessi dall'Italia nuovamente in questa vicenda. Però si diceva ci spostiamo in Pakistan il giorno dopo la strage dei bambini nella scuola. Il giorno dopo sono le singole storie ad emergere. E a fare paura, perché nei racconti dei bambini sopravvissuti alla furia dei terroristi islamici a Peshawar, in Pakistan, c'è quanto di più brutale si possa immaginare. Bambini di prima elementare usati come scudi, classi sterminate colpo su colpo. Nawaz, raccontano le agenzie, ha 10 anni, è l'unico sopravvissuto di tutta la sua classe, 30 bambini. Che cosa gli si potrà dire? Per 7 ore, assieme ad altri 500 bambini e ad alcuni insegnanti, è rimasto ostaggio mentre gli altri 141 venivano uccisi. La strada attorno alla scuola per figli di militari era piena di padri e madri che correvano disperati pregando di trovare il loro figlio vivo. 141 i morti, 132 sono studenti, 9 sono insegnanti, 124 i feriti. Oggi è il giorno delle singole storie. Ma la cosa che fa più impressione è la rivendicazione del gesto, una scelta per farvi soffrire, hanno spiegato i talebani. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questa mattina ci sono state due esplosioni proprio in Pakistan, all'esterno di una scuola femminile non lontano da Peshawar, è quello che riferisce l'emittente indiana All News NDTV. Da dire però che questa scuola, così come altre, era chiusa nella giornata di oggi in segno di lutto per il massacro di ieri. E tra l'altro almeno 25 persone, tra cui 15 bambini, sono rimaste uccise oggi in Yemen in un attentato contro una postazione delle milizie sciite a Rada, nel centro del paese. Erano a bordo di uno scuolabus di passaggio dal luogo dell'attacco con un'autobomba, in cui obiettivo era la casa di Abdallah Idris, un capo della milizia Ansarullah. Restiamo all'estero e ci spostiamo in Russia, dove la situazione sui mercati oggi sembra un po' più tranquilla rispetto a ieri. Evidentemente si aspetta domani l'intervento di Vladimir Putin. Ci colleghiamo con Antonella Scott del Sole 24 Ore. Antonella, buongiorno. Buongiorno, sì, è proprio così. Oggi perlomeno le cose vanno un po' meno peggio, cioè, il rublo continua a perdere colpi, però la caduta è rallentata. E questo sembra soprattutto perché questa mattina il Ministero delle Finanze ha fatto sapere che ha venduto le proprie riserve che erano rimaste, ha parlato di 7 miliardi di dollari, e quindi ha acquistato rubli. E poi c'è una seconda riunione d'emergenza convocata dal primo ministro Medvedev, che già ieri aveva riunito i ministri ministri economici e il governatore della Banca Centrale, Anna Biulina, e Medvedev ha ripetuto che la Russia ha le risorse monetarie necessarie per affrontare la crisi, per risollevare il rublo, senza minare, questo lo ripetono, senza minare i principi fondamentali dell'economia di mercato. Quindi sembrerebbe smentire le voci che si ricorrono, la preoccupazione che la scelta sia alla fine, esaurite tutte le possibilità, quella di reintrodurre controlli di capitali, che però sarebbe un po' una sconfessione di tutto quello che Putin ha ottenuto, ha dato alla Russia in questi suoi 15 anni di potere, che è soprattutto stabilità e quindi anche stabilità del rublo. Grazie ad Antonella Scott del Sole 24 Ore per questi aggiornamenti e per un commento, per un'analisi. Abbiamo in studio con noi il nostro Gigi Donelli. Gigi, c'è anche un fronte tutto interno che riguarda la Russia, che forse è il vero problema di Putin in questo momento. Sì, rischia di esserlo, perché stabilità vuol dire, soprattutto visto dall'interno, capacità di spesa. C'è un dato interessante: nella prima presidenza Putin, come ha ricordato Antonella, siamo alla terza, nella prima presidenza la capacità di acquisto, il potere di acquisto dei russi è triplicato. Bene, in quel dato c'era molto del successo di Putin, e proprio oggi che la crisi colpisce così pesantemente la valuta nazionale, l'orgoglio nazionale, ecco che la situazione si ribalta. Esempi pratici: siamo sotto Natale, si vanno a fare spese, i russi, come molti popoli, amano mettere ordine nella casa, nell'appartamento. Bene, infissi, arredamenti, oggetti per la casa. Questo è un esempio tra i tanti di un paese che importa in maniera sistematica. Un paese che ha l'enormità dei boschi dei russi importa il legname delle finestre per l'80% dalla Finlandia, quindi da una zona euro. Ecco, questo è quello che in queste ore rischia di segnare questo patto chiaramente sociale che Putin ha siglato con i russi 15 anni fa e che ora probabilmente per la prima volta si trova, come dire, di fronte a una difficoltà molto tangibile per le famiglie russe. Quindi di tutto questo naturalmente torneremo, come ovvio, a parlare domani, soprattutto alla luce delle parole che sentiremo da Vladimir Putin, per sentire che cosa dirà. Ritorniamo sull'Italia, iniziando dalla sentenza a Torino per i No TAV, una sentenza molto attesa e accolta con grida di giubilo da parte degli imputati. Filomena Greco, buongiorno. Sì Simone, buongiorno a te. Così, assolti dall'accusa di attentato con finalità terroristiche, condannati invece a 3 anni e 6 mesi per fabbricazione e trasporto di armi, per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Si è concluso così dunque il processo a carico di 4 esponenti del movimento No TAV per l'attacco al cantiere dell'alta velocità di Chiomonte in Valsusa nella notte fra il 13 e il 14 maggio del 2013. La sentenza della Corte d'Assise è arrivata in mattinata, è stata accolta, come dicevi, fra le urla libertà, libertà delle decine di simpatizzanti presenti nell'aula bunker del carcere delle Vallette di Torino, con loro anche le famiglie di 4 giovani ragazzi che si trovano in cella, lo ricordiamo, dal 9 dicembre dell'anno scorso. La decisione del Tribunale era per certi versi attesa, visto che la primavera scorsa c'era stato un intervento della Cassazione sul procedimento cautelare, proprio per annullare la sentenza del Tribunale della Libertà che aveva deciso la carcerazione per i 4 imputati. Da sempre dunque gli avvocati della difesa hanno sostenuto come non fosse plausibile la contestazione di reati di matrice terroristica da parte della Procura, che invece per la prima volta aveva ipotizzato questo genere di reato per i fatti della primavera del 2013 e aveva chiesto una condanna a 9 anni e mezzo. Oltre ai 4 militanti giudicati oggi, ci sono altri 3 esponenti del movimento accusati di attentato, raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare la settimana scorsa, e che dunque anche loro andranno incontro ad un processo. Delle parti civili, lo ricordiamo, solo l'ETF ha ottenuto il diritto ad un indennizzo per quegli atti di violenza, che è stato invece indennizzo che è stato invece negato all'avvocatura dello Stato e a un sindacato di polizia che si erano costituiti parte civile. Ed è tutto. Grazie a Filomena Greco. Noi restiamo sulla cronaca, iniziando dalle novità sul caso dell'omicidio di Yara Gambirasio. Lo dicono le riprese delle telecamere passate al setaccio dai carabinieri, lo dice un testimone sentito per 2 volte nelle indagini. Il furgone di Massimo Bossetti, l'uomo arrestato per l'omicidio di Yara Gambirasio, Bonifacio, il 26 novembre del 2010 avrebbe girato intorno alla palestra di Brembate per circa un'ora, poi si sarebbe allontanato dopo l'uscita della ragazza dal centro sportivo. È il giorno in cui è scomparsa la dodicenne di Brembate di Sopra. A distanza di 4 anni dall'omicidio di Yara, mancano ancora prove certe per una condanna. Bossetti è in carcere dal 16 giugno scorso. I carabinieri del RIS avevano sequestrato i suoi mezzi, il furgone e una Volvo. Li avevano smontati e passati al setaccio, prelevando numerosi campioni che poi hanno sottoposto agli esami di laboratorio. Su entrambi non c'è traccia della ragazza. Anche dalle analisi sugli oggetti sequestrati nella casa del muratore non sarebbero venute indicazioni che altrimenti lo avrebbero inchiodato, aggiungendosi alla prova del suo DNA trovato sul corpo di Yara. Le indagini sono ancora aperte. Il PM della Procura di Bergamo, Letizia Ruggeri, è in attesa di altre relazioni di esperti a cui sono affidati i rilievi, come quelli su computer e telefoni cellulari di Bossetti. Di certo, le ultime prove potrebbero essere un punto a favore dell'accusa. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso sentiremo le informazioni dalle strade e poi ci occuperemo di questa vicenda della quale vi abbiamo accennato nei titoli, che ci ha interessato molto, la vicenda che riguarda 3 bibliotecari della Girolamini di Napoli che denunciarono l'allora direttore per i furti alla Girolamini di volumi che venivano portati via con dei camion. Questi bibliotecari sono stati nominati cavalieri al merito dal Presidente della Repubblica. Ebbene, adesso rischiano che il loro contratto non venga rinnovato. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Nel 2015 l'uscita dalla recessione, dice Confindustria, che annuncia saremo parte civile nel processo su Roma Capitale. Caso De Marò, il governo richiama l'ambasciatore italiano a New Delhi per consultazioni. Esplosioni fuori da una scuola femminile a Peshawar, in Pakistan. Dopo la strage dei bambini, i talebani minacciano nuovi attacchi. Non sono colpevoli di terrorismo, assolti dall'accusa in OTAV sotto processo a Torino, condannati per i danneggiamenti. Buongiorno Maria Rosa Berardi. Buongiorno. Buongiorno. E chi è Maria Rosa Berardi? È una bibliotecaria, no? Sì, sono Maria Rosaria Berardi. Maria Rosaria Berardi, è una bibliotecaria lei? Sì. Alla Girolamini di Napoli, che è una delle una delle biblioteche più antiche d'Italia, la più antica di Napoli sicuramente, 150.000 tra manoscritti e volumi. Lei, insieme a Piergianni Berardi, che è suo fratello, e a Bruno Caracciolo, denunciò quello che avveniva all'interno della biblioteca, dove l'allora direttore di fatto sottraeva dei volumi nottetempo, è così, no? Esattamente. Come avveniva questo furto? Questo furto ormai è tutto al processo, è stato denunciato che avveniva di notte con dei collaboratori sia del direttore De Caro che con dei collaboratori del conservatore di allora, padre Massano. Tutto è stato accertato nei corsi dei vari processi penali e civili. E per fortuna questo tristissimo periodo si è chiuso. Marino Massimo De Caro, questo è il nome dell'allora direttore, è stato condannato, perché tra l'altro ha confessato, quindi è stato condannato anche in appello. La vicenda giudiziaria è sostanzialmente conclusa. Siete stati voi appunto a denunciare tutto questo, e per questo avete ricevuto anche un'onorificenza al Presidente della Repubblica, no? Sì, benissimo, dal Presidente Napoletano ci ha insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro. Siete Cavalieri del Lavoro, lavoro che però rischiate di non avere più dalla fine dell'anno. Sì, dal 31 dicembre, perché in realtà dal 2012 ad oggi ci venivano fatti dei contratti trimestrali con un'agenzia interinale, Obiettivo Lavoro. Il 31 dicembre scade questo ultimo contratto, sesta proroga, e dalla direzione generale del Ministero e dalla Soprintendenza regionale di Napoli non prendono decisioni in merito, quindi se non prendono decisioni al 31 dicembre noi siamo fuori. Ma la cosa più grave è che tutta la parte contributiva di 40 anni e oltre di contributi non si trovano presso gli enti previdenziali, per cui nel momento non si trova, mi scusi Berardi, non si trovano, che cosa vuol dire? Giusto per chiarire, perché poi questo ci dà anche una misura di come funziona il paese. Voi questi contributi li avete pagati, solamente che gli enti previdenziali non sono in grado di ritrovare i vostri contributi. Noi abbiamo ritrovato con una certa regolarità i contributi fino al 1984 presso l'INPS, ma presso l'INPDAP, laddove il Ministero ci aveva equiparati al personale non di ruolo dello Stato, per cui bisognava versare all'INPDAP, non si trovano. Ci sono soltanto i nostri nominativi, ma pare che ci siano dei contributi cumulativi che nessuno riesce a sistemare diviso per le tre persone. Di conseguenza è come se non ci fossero, perché non si trovano. Beh, quindi... lei da quant'è che è precaria, Berardi? Noi siamo sempre stati precari perché siamo stati assunti dalla Congregazione dell'Oratorio di Napoli negli anni 70, perché erano i custodi di questo immenso patrimonio, e quindi eravamo legati dal 1980 con la legge 803, eravamo legati a delle convenzioni biennali, però di fatto il lavoro era ininterrotto dagli anni 70 fino ad oggi. Non abbiamo mai avuto un giorno di interruzione, tutti i giorni siamo venuti a lavorare e tutti i mesi ci sono stati trattenuti tutti i contributi di legge. E questi contributi non si trovano più, e appunto in aggiunta nessuno vi ha dato conferma che il vostro contratto possa essere rinnovato alla fine dell'anno. Ma chi è che vi deve dare una risposta su questo? Il Ministero o la Sovrintendenza o tutte e due? Allora, adesso si stanno ribaltando, diciamo, la palla bollente, perché in effetti prima queste biblioteche dipendevano dalla Direzione Generale del Ministero Beni Culturali di Roma, quindi la dottoressa Rummo. Però da quest'anno pare che la patata bollente sia passata alla Sovrintendenza regionale della Campania, il dottore Angelini, il quale a sua volta pare che non abbia la disponibilità economica per regolarizzare questi contratti con i relativi contributi, e quindi la Direzione Generale di Roma ha lanciato una lettera che entro domani, il 18, la Direzione Regionale deve rispondere insieme al direttore della biblioteca se il rapporto di lavoro deve continuare o meno. Quindi domani voi dovreste avere più o meno una risposta, insomma, in sostanza. Se la direzione regionale e la direzione di questa biblioteca non rispondono al Ministero, significa che noi il 31 dicembre abbiamo terminato il rapporto di lavoro. Allora, allora è chiarissima la sua situazione, cioè chiarissima, cioè non chiarissima per lei, naturalmente abbiamo capito quello che sta succedendo e sicuramente seguiremo la vicenda. Io la ringrazio, intanto grazie a Maria Rosaria Berardi, bibliotecaria presso la biblioteca Girolamini di Napoli, cavaliere al merito della Repubblica Italiana, per aver denunciato i furti che avvenivano appunto alla Girolamini e che adesso, come avete sentito, rischia il posto. Continueremo a seguire la vicenda. Intanto io saluto Francesca Puglisi, che è responsabile scuola del Partito Democratico. Benvenuta e buongiorno. Buongiorno. Allora, la chiamiamo Puglisi perché oggi stanno circolando delle strane indicazioni per quanto riguarda l'orientamento proprio del Partito Democratico in merito alla riforma, che in realtà non è proprio una riforma, ma per il momento è ancora una consultazione pubblica che si è appena conclusa. Comunque un'idea, una sorta di libro bianco, che è la famosa buona scuola presentata dall'esecutivo. Nella buona scuola si prevede che il 66% degli scatti per gli insegnanti arrivino dal merito, ossia dirigenti scolastici decidono a un certo punto dell'anno, alla fine dell'anno, dicono ok, questi si meritano un aumento di stipendio, questo 66%, e non è più basato esclusivamente sull'anzianità. C'è un'idea, consente il termine sbagliato e mutuato da altri luoghi, c'è l'idea di una controriforma, cioè pare che ci sia un documento del Partito Democratico che dice no, ritorniamo in gran parte all'anzianità e il merito lasciamolo un po' da parte. È così o no? Assolutamente no, non c'è alcun dietrofront del Partito Democratico sul merito. E perché? Perché siamo rimasti l'unico paese ad avere come unico criterio di avanzamento stipendiale degli insegnanti l'anzianità di servizio. Altri paesi europei hanno esclusivamente il merito, altri un mix di anzianità e merito. Ora, il Partito Democratico ci ha messo nella consultazione pubblica della buona scuola, sulla proposta del governo della buona scuola, non solo la testa e il cuore, perché abbiamo a cuore la scuola, ma anche le gambe, ossia abbiamo girato il paese intero ascoltando insegnanti, studenti, famiglie, imprenditori, amministratori locali, davvero tutti. E abbiamo assicurato che ciò che avremmo ascoltato lo avremmo tenuto in alta considerazione nella scrittura dei provvedimenti. Quindi, come ha annunciato anche il ministro Giannini nella sua conferenza stampa del 15 dicembre, anche dalle consultazioni online emerge e coincide con ciò che noi abbiamo ascoltato sui territori, le persone suggeriscono di intraprendere una via che sia un mix tra anzianità e riconoscimento del diverso impegno che gli insegnanti prestano alla propria scuola. Tra l'altro, la proposta del che cosa non è piaciuto ad alcuno. Su questo vorrei una risposta netta. Quindi la vostra idea è comunque quel criterio del 66% di premiati col merito, che è un 66, qualcosa periodico naturalmente, perché si sta dicendo i 2/3 degli insegnanti premiati con il merito. L'idea di farlo saltare quel criterio per introdurne uno nuovo, o quel criterio resta? Perché è questo. Guardi, il punto. Allora, come lei ha detto, quella è una proposta che è servita per aprire un dibattito pubblico nel paese che non parlava, non si appassionava più ai temi dell'istruzione e dell'educazione oramai da troppi anni. Noi stiamo adesso iniziando a lavorare alla scrittura dei provvedimenti. Avevamo garantito all'intero paese che avremmo tenuto in considerazione ciò che ci veniva detto. Noi ora iniziamo a ragionare sul provvedimento riguarderà la valutazione, proprio perché crediamo innanzitutto che sia, e questo lo dico come Partito Democratico, sia sbagliato, confermo ciò che scrive anche oggi il Corriere della Sera, che a pagina quello che è contenuto a pagina 58 della buona scuola, ossia che l'insegnante mediamente bravo, per essere certo di percepire lo scatto di merito, debba andarsi a trovare la scuola dove ci sono gli insegnanti mediamente scarsi. Credo che sia una cosa, come dire, condivisibile, non riesce a darmi una risposta netta su questo. Cioè, questo 66% lo volete mantenere oppure no? O l'idea è di adottare un altro criterio e adesso ci ragionate? Noi stiamo ragionando sui criteri da adottare, non è detto che sia scartato il 66, stiamo ragionando anche su altre formule. Qual è l'altro punto di debolezza che abbiamo intravisto nella proposta della buona scuola? Il fatto che si sostituisce un meccanismo di fasce stipendiali fatte di anzianità di servizio ad un altro meccanismo di fasce stipendiali fatto di scatti di merito, ma che non prevedono alcuna differenziazione delle carriere degli insegnanti all'interno della scuola. Io credo che invece le autonomie scolastiche, noi pensiamo che l'autonomia scolastica, ed è questa la grande idea che ha lanciato la buona scuola, quella di valorizzare finalmente una grande riforma che fece il centro-sinistra, che è l'autonomia scolastica. Quindi noi, Matteo Renzi l'ha detto in Assemblea nazionale, noi adesso coinvolgeremo 1000 persone di buona volontà che hanno a cuore la scuola, che la vivono, sono appassionate nella scrittura dei provvedimenti. questo l'abbiamo, quindi, questo l'abbiamo capito. Però insomma, in sostanza quel criterio potrebbe saltare. Ci state ragionando, ma potrebbe saltare. Ci state ragionando, ma potrebbe saltare. Grazie a Francesca Puglisi, responsabile scuola del Partito Democratico. Noi adesso ci fermiamo, ci pigliamo una pausa. Andiamo alla borsa, come sempre, naturalmente. Oggi giornata particolarmente importante, perché dopo il crollo di ieri del rublo vanno giù le borse europee, in particolare va giù Milano, e ne parliamo tra un attimo, e poi dopo ci ritroviamo e torneremo sulla vicenda dei due Marò. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Nel 2015 l'uscita dalla recessione, dice Confindustria, che annuncia saremo parte civile nel processo su Roma, su mafia capitale. Il Parlamento di Strasburgo ha approvato una risoluzione che sostiene in linea di principio il riconoscimento dello Stato della Palestina sulla base dei confini del 67. Nel caso dei Marò, il governo richiama l'ambasciatore italiano per consultazioni. Siamo delusi e irritati, dice il ministro Pinotti. Esplosioni fuori da una scuola femminile a Peshawar in Pakistan. Dopo la strage di bambini, i talebani minacciano nuovi attacchi. La borsa. Borse in diretta. Ed è una giornata, come si diceva, negativa, 1,5 punti di calo per il FTSE MIB, 1,45 per il FTSE All Share, negative anche le altre piazze finanziarie europee, ma non così tanto, Parigi giù di 0,5 punti percentuale, Francoforte dello 0,67 e Londra dello 0,65%. È situazione un po' più calma dal lato del mercato dei cambi, almeno per quanto riguarda il rublo. Ci vogliono 81 rubli per comprare un euro in questo momento e 65 per comprare un dollaro. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, come mai va così giù Milano? Ma Milano va così giù e fa peggio degli altri listini perché è particolarmente debole il settore bancario, che pesa molto sull'indice principale a Milano. Comunque sono deboli tutte le borse, oggi sono molti i fattori in gioco, ricordavi tu la crisi finanziaria russa, anche se oggi c'è qualche segno di stabilizzazione, pesa ancora la debolezza del greggio che va a colpire soprattutto i titoli del settore energetico. Le borse poi sono caute in vista del voto in Grecia per la presidenza della Repubblica, questa sera è previsto il primo round in Parlamento, e infine in vista delle decisioni della Riserva Federale negli Stati Uniti. Oggi si riunisce infatti il Comitato di Politica Monetaria dell'Istituto Centrale Americano, quindi sono molti i fattori in gioco e ci sono anche dei realizzi dopo la corsa che avevano realizzato i listini nelle ultime battute ieri. Naturalmente, e citavi il voto in Grecia, naturalmente non è prevista per oggi l'elezione del Presidente della Repubblica, però i mercati attendono un'indicazione di massima per quello che poi dovrebbe essere il voto finale del 27 dicembre, per capire se si andrà ad elezioni anticipate oppure no. Grazie intanto ad Isabella Tasso, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E siamo con Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore ed esperto di politica estera. Ugo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Per parlare della vicenda dei due Marò di Girone e La Torre, come sapete la Corte indiana ha deciso che Girone non potrà rientrare in Italia per Natale e La Torre non potrà rimanere di più in Italia per curarsi, anche se il ministro della difesa Pinotti ha detto lo farà lo stesso. Le notizie di oggi sono che l'ambasciatore italiano a New Delhi è stato richiamato per consultazioni, ci sono state le prese di posizione molto dure da parte dei ministri. Io vorrei capire da te innanzitutto, Ugo, se la tua impressione è che si sia ancora una volta sbagliato qualcosa nella gestione della vicenda. Beh, intanto chiariamo che dopo 3 anni ancora non sappiamo con precisione di che cosa sono accusati, nel senso che la giustizia indiana è enormemente peggiore di quella italiana e questo è profondamente ingiusto. Per quanto ci riguarda, in realtà non esiste paese al mondo nel quale che permetta che due suoi militari in missione all'estero possano essere giudicati da un paese terzo. Che siano colpevoli o innocenti conta poco, conta il fatto che non spetta al paese che manda i militari. E questo è potuto succedere perché appunto all'inizio, 4 governi fa, il primo governo non garantì, non diede una copertura giuridica internazionale alla missione dei nostri Marò. Poi ci sono stati altri 3 governi, e stiamo parlando quindi complessivamente di 4 governi che erano prima di centrodestra e poi di centrosinistra, ognuno dei quali ha commesso dei passi sbagliati. all'interno di una realtà nella quale i nostri Mao, parlo di noi, noi cittadini, noi società civile, nella quale i nostri Mao non sono mai stati percepiti come dei nostri soldati in missione all'estero, ingiustamente tenuti contro la loro volontà, la volontà del governo che li ha mandati in India, ma o come dei fascisti o come degli eroi. Come appunto Gualtieri Bellini, come sempre è stato nel nostro paese, togliendo gravemente la legittimità appunto della battaglia che qualsiasi governo, peraltro in maniera molto mediocre, ha fatto. Per quanto riguarda le prospettive, che azioni secondo te, Ugo, si possono mettere in campo adesso? Perché come dire, fuori di dichiarazioni bellicose, insomma, che cosa si può fare? Beh, Matteo Salvini ha fatto una dichiarazione infantile, ovviamente, quando dice che bisogna mandare reparti speciali a salvare i nostri, perché credo che nemmeno Rambo accetterebbe una missione di quel genere, che è un'idea stupida a priori. Non c'è nulla che credo noi oramai possiamo più fare, la questione è semplicemente nelle mani del governo indiano, perché poi il comportamento generale dei governi e della società civile italiana in questa vicenda ha anche reso molto più debole la nostra posizione presso l'Unione Europea, presso le Nazioni Unite, che insomma non sono molto disposti, come si è dimostrato, ad aiutarci. È nelle mani dell'India, dobbiamo sperare che Narendra Modi, il nuovo primo ministro indiano, più che essere un nazionalista indù, cosa che è, sia quell'altra cosa che è, cioè un uomo politico molto pragmatico che è disposto a porre l'India al centro della globalizzazione e che quindi non ha alcun interesse nel vedere andare avanti questa vicenda con l'Italia, che peraltro è un paese esportatore importante. Grazie a Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, esperto di politica estera, per questa analisi e per questo commento. Noi restiamo in questo caso sulla politica, ma sulla politica interna, sulle vicende del Quirinale dopo le parole di Napolitano di ieri. C'è chi in maniera forse un po' frettolosa lo ha già definito il suo testamento politico. Quel che è certo è che, rivolgendosi alle alte cariche dello Stato nel tradizionale discorso per gli auguri di fine anno, Giorgio Napolitano ieri ha rivolto una serie di messaggi chiari a forze politiche e sindacati. Stabilità e riforme sono fondamentali per il Paese, ha sottolineato il capo dello Stato, che con le sue parole ha di fatto blindato l'azione del governo Renzi. Per il Presidente della Repubblica le voci di voto anticipato o scissioni sono dannose per il Paese. Quanto alle riforme, superare il bicameralismo non è un tic da irrefrenabili rottamatori, ha detto Napolitano, che se da un lato ha invitato i sindacati a rispettare le scelte dell'esecutivo, dall'altro ha mostrato anche il suo disappunto per un clima di scarso dialogo in un momento giudicato critico per l'Italia. Nonostante le attese, il capo dello Stato non si è sbilanciato sulla data delle sue dimissioni, ma ha assicurato il suo pieno impegno per tutto il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea, che si concluderà a metà gennaio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una piccola nota per gli ascoltatori, c'è chi ci scrive a proposito del commento di Ugo Tramballi sulla vicenda dei due Marò. Qualcuno dice: erano tutti governi di centrosinistra, altri dicono Berlusconi e Monti, chi c'era di centrosinistra? Vi ricordo che il giro è stato Berlusconi, Monti, Letta e adesso il governo Renzi, quindi stiamo parlando di governi di tutte le parti politiche. Chiudiamo parlando di Benigni. Roberto Benigni vola alto con la Bibbia e fa il pieno di ascolti. Ieri sera su Rai 1 ha fatto il miracolo, battendo addirittura se stesso. Se infatti la prima delle due serate dedicate ai 10 comandamenti aveva ottenuto oltre 9 milioni di telespettatori, pari al 33% di share, quella di ieri sera ne ha totalizzati 10 milioni e 266 mila, con il 38% di share. Un risultato che, anche se non riesce a ripetere i record degli show sull'Inno di Mameli né quello sulla Costituzione del 2012, conferma la capacità del nostro premio Oscar di monopolizzare la platea incollandola al piccolo schermo. Davanti alla TV ci sono un po' tutti, più donne che uomini, di tutte le età, anche i giovani dai 15 ai 24 anni. Trasversale anche l'estrazione sociale del pubblico, con un boom tra i laureati, oltre il 40%. È il programma più visto dell'anno, escluso Sanremo, twitta soddisfatto il direttore di Rai 1 Giancarlo Leone. Plauso anche dal direttore generale della Rai Luigi Gubitosi, cui si unisce un commosso Nicola Piovani, autore delle musiche della serie. L'affondo arriva sul settimo comandamento: non rubare. Dio ci ha fatto un trattamento di favore, ironizza Benigni. Non rubare. Diciamo che